Radio Exalge. Questa è la prima puntata dedicata agli anni Ottanta. Di Cerrone su Deep Vision. Data dedicata agli anni Ottanta. Where were you last night? I tried to call you, but you were always busy. Radio Exalge, Deep Vision. Questa è Crazy Gang. Crazy Gang. Telephone computer. Questi sono i Sad Lovers and Giants, Things We Never Did. Deep Vision. Selezione dei dischi Deep Vision su Radio Exalge. Che abbiamo sentito poco fa è Magic Toy Missing dei Meat Puppets. Gadget con Saturday Night Special. Done. All the damage is done. I'm confessing. Power we entrust, the love advocated. Ciao XBeat. Flowers, they drive. ora stiamo ascoltando Princess Goldert dei Legendary Pink Dots. Deep Vision su Radio Exarge. Fantastico pezzo dei Legendary Pink Dots. Deep Vision versus Tiresia, che la buscia calaca. Un saluto al nostro amico Timothy XBeat. Sempre nei nostri cuori. Thank you. saluto anche a Florian Schneider che ci ha lasciato circa un annetto fa, se non sbaglio, dei Kraftwerk, appunto. The Human League con The Things That Dreams Are Made Of. Scusate l'inglese italianizzato. These are the Deep Vision. The White Horse dei Laid Back. No, no, no. Sonorità anni 80 per voi oggi su Deep Vision. Fra l'altro questo brano ha ispirato molto molti della scena di Detroit, anche nella ghetto tech. È stata ripresa da DJ Godfather e anche DJ Assault, Mister De, insomma, in alcuni brani è stata ricampionata. È stato un pezzo abbastanza cruciale per la musica, diciamo, ballabile degli anni 80. No, no, no. Masterpiece. If you wanna be rich, ci stiamo sentendo Mysteriality degli Orchestral Manoeuvres in the Dark. Ora ci stiamo sentendo i Ministry con Same Old Madness. Don't cry tonight. è un pezzo molto significativo per gli anni 80. Il Gary Numan dei Tubeway Army, Cars. Deep Vision su Radio Exalge, questa puntata dedicata agli anni 80. Deep Vision è Tiresia. Volevo dedicarlo al mio amico Antonio Fiorini, grande artista e anima speciale. The sun go down to the water and see the women weeping there. Men go up into the mountain. Faces seems wet to touch. Bellissimo pezzo, davvero. Puntata di Deep Vision su Radio Exagera, ragazzi, supportiamo la buona musica. Un capolavoro di John Fox, Is Liquid. There's an angle, she's a tangent. There's some flowers on the bathroom. Rigorosamente anni 80. There's a lick track, now she makes a flashback. There's a liquid. Here's a laugh, she's a graph. He wears a sticky white shirt and tie. In those viscose clothes, his watch and goes. He's a liquid. Dark. She's elusive, she's adhesive, is a trickle down of the same wall. They get married too much, she's a soft touch. Is a liquid. He pulls, she pushed. They read the Bible about the flood. She draws the curtains, but now she's certain. Is a liquid. Pezzo dei The Stranglers. Don't pretend. I should have refused to meet this midnight. some special treat. I don't know when morning comes, it might not come today. Harry likes to play all night, I'll do what Harry says. Ragazzi, questa era Deep Vision su Radio Exalge, la prima puntata con Tiresia e Deep Vision. Un abbraccio a tutti.